Incontri di Gianfranco Fabi. I still haven't found what I'm looking for. Questo è il titolo della canzone degli U2, il titolo di una canzone con cui inizia il programma, scelta da Stefano Collilanzi, amministratore del Reato di G-Group, che è qui con noi oggi. Buongiorno Stefano Collilanzi. Buongiorno a tutti. Una canzone degli U2, non ho ancora trovato quello che sto cercando. Lei ha scelto questa canzone per iniziare il nostro incontro, come mai? Perché penso che il desiderio di trovare quello che uno cerca sia il motore che fa alzare ogni mattina, insomma, che dà la ricerca del vero, del buono, del bello, insomma. Ecco, spieghiamo innanzitutto subito che cos'è G-Group. G-Group è una società che si muove nell'ambito della ricerca di lavoro. G-Group nasce come una società di lavoro temporaneo dopo la legge Treu del 97 e diventa, anche grazie all'ampliamento dell'oggetto sociale previsto dalla legge Biagi, un soggetto in Italia che si occupa di svariati servizi al lavoro e diventa fondamentalmente la prima, forse l'unica, multinazionale italiana del lavoro. Ecco, multinazionale perché ha altre società collegate, possedute direttamente in altri paesi, per esempio quali? Ma noi siamo operativi con tante filiali in paesi europei come Germania, Francia, Polonia, Romania, Spagna, e siamo operativi anche in altri continenti, in Cina con ricerca e selezione e lavoro temporaneo, in India con ricerca e selezione e lavoro temporaneo e in Brasile e Argentina. Quindi l'Italia ha qualcosa da insegnare in questo campo? L'Italia ha tante cose da insegnare in tanti campi, e quindi noi siamo orgogliosi di poter essere diciamo i soggetti che si impegnano, in particolare appunto riguardo al mercato del lavoro. Ecco, sul mercato del lavoro torneremo poi. Adesso magari puntiamo i riflettori su Stefano Collilanzi, sulla sua esperienza. Come è nata questa possibilità, questa volontà di creare una società nel mondo appunto del mercato del lavoro? Ma la mia storia nasce come laureato in Bocconi, che grazie all'università acquisisce una passione per l'impresa. Per l'impresa come soggetto di sviluppo, come possibile soggetto di sviluppo e non come possibile soggetto di conflitto. Questa ipotesi diventa poi, innanzitutto, nei primi anni di lavoro, la necessità di trovare strade per imparare, no? per approfondire competenze, per approfondire conoscenze. E poi trovo a un certo punto, grazie a dei fatti, degli accadimenti anche totalmente apparentemente casuali, ma io non penso casuali, segno per iniziare una traiettoria particolare. No? Ecco, che ha portato, per esempio, quali fatti, quali incontri hanno segnato la sua esperienza? Direi che sono soprattutto due incontri che hanno segnato la mia esperienza come persona e come professionista. Come persona è stato fondamentale l'incontro con Luigi Giussani, che il fondatore di Comunione di Liberazione, che ho incontrato ancora quando ero al liceo e che penso mi abbia permesso di fare un'esperienza positiva della realtà, che ha tirato fuori il mio desiderio, la mia voglia di costruire me e di costruire qualcosa per tutti. Quindi penso che questo sia stato, cioè, nel fondare proprio una speranza, no? come certezza del presente per il futuro. E l'altro incontro importante è stato Marco Vitale, che è stato il mio mentor, se vogliamo, la prima persona con cui ho lavorato. Sono stato con lui 7 anni e da lui penso di aver imparato tantissimo di cosa sia un'impresa. Ecco, Marco Vitale è uno dei maggiori economisti di impresa italiani, un grande attento e osservatore della realtà economica italiana. Una realtà che comunque è complessa, muoversi in questa realtà è difficile, muoversi in questa realtà con un atteggiamento poi costruttivo forse è ancora più difficile. Sono d'accordo, nel senso che obiettivamente si rischia di rimanere soli. Ed è per questo che ritengo fondamentale, proprio per il limite che sento di avere, no? il fatto di rimanere in connessione con persone che mi aiutino a tenere lo sguardo alto, insomma, no? Perché è facile da una parte cedere alla rassegnazione e dall'altra parte abbassare lo sguardo e quindi abbassare anche il livello degli obiettivi, no? Ecco, G Group è una realtà abbastanza composita. Quante persone compongono attualmente? In questo momento noi abbiamo una realtà di circa 2.000 persone. Eh? Circa 1.000 persone lavorano in Italia, forse 1.100. Poi appunto le altre invece sono impiegate nei vari paesi che dicevo prima. Quindi è una società essenzialmente che fa selezione del personale, offerte di posti di lavoro? Noi abbiamo due, diciamo, business che rappresentano il core del gruppo. Uno è il lavoro temporaneo, che si associa alla ricerca e selezione di, diciamo, bassi profili professionali, e l'altro invece è la ricerca e selezione di fascia middle. Queste due attività noi le sviluppiamo sia in Italia che all'estero. In Italia poi invece, che è un po' il nostro laboratorio, perché comunque sia il nostro mercato core, quindi il mercato dove noi siamo impegnati dall'inizio e che è un po' l'origine di tutto il resto dello sviluppo, noi stiamo invece estendendo maggiormente la nostra gamma di servizi all'interno di quella che definiamo narrow diversification nell'ambito dei servizi al lavoro, e quindi ci occupiamo anche di formazione, ci occupiamo anche di ricerca e selezione di fascia alta, ci occupiamo di outplacement, cioè politiche attive, servizi di ricollocazione, di supporto a ricollocazione professionale, outsourcing nel payroll. Ultimamente stiamo pensando di investire in una realtà che aiuti i siti produttivi che vengono dismessi ad essere reimpiegati e rivitalizzati attraverso nuove iniziative. Come sceglie i suoi collaboratori diretti? Per vie personali? Fino a quando eravamo 300 persone, 350 persone, io le persone le selezionavo. Guardandole negli occhi? L'ultima fase di selezione era mia, no? Direttamente. Adesso in Italia, per quanto siano oltre 1.000 per l'appunto, tutti quelli che entrano fanno un corso di formazione, di orientamento all'attività del gruppo, in cui hanno la possibilità di incontrarmi direttamente per sapere anche con chi devono avere a che fare. Ancora buona domenica e bentornati al nostro incontro di oggi con Stefano Collilanzi, amministratore delegato di G Group. G Group, abbiamo visto nella prima parte, una grande realtà, più di 1.000 persone impegnate in Italia sul fronte della formazione, ricerca, selezione del personale, e un gruppo multinazionale con altrettante persone nelle società in molte sedi estere. Allora parlavamo appunto di questo mondo del lavoro con Stefano Collilanzi, un mondo del lavoro che è cambiato molto negli ultimi anni, che è diventato più flessibile, che è diventato anche più difficile, però che offre anche grandi opportunità da un punto di vista vostro, indubbiamente, ma anche da un punto di vista dei giovani. Come vede i giovani oggi, come affrontano il mondo del lavoro? Ma noi abbiamo un bello specchio, devo dire, anche se io ormai sono poco operativo, adesso sono più impegnato con la figlia che sta cominciando l'università e quindi... I figli da 5 peraltro, esatto. Poi parliamo anche di questo. Però hanno il problema della scuola, la scelta della scuola più avanti. Comunque, io penso che ci sia un fatto di mentalità, non voglio dire preoccupante, però che su cui bisogna agire, intervenire, cioè i giovani hanno bisogno di essere sostenuti, rischiano di essere paralizzati, di avere paura della fatica, paura del rischio, paura un po' della realtà, rischiano di essere un po' aggrappati al già noto, e questo se avviene già in età giovanile, che è l'età mi sembra in cui il desiderio debba esplodere in modo più forte, diventa dura, diventa difficile, perché è necessario investire da giovani, è necessario voler costruire sé ed altro in modo particolare. È ancora molto forte la ricerca del posto fisso, se non del posto pubblico. Però neanche questo, perché ormai il posto fisso non c'è, per cui c'è come una sorta di rassegnazione anche a vivere di espedienti, a potersi pagare la vacanzina ogni tanto, ad abbassare il livello del desiderio. Questo è brutto, è pesante, per cui c'è proprio bisogno di sostenere il desiderio, no? C'è proprio per una rassegnazione, quasi, quasi una rassegnazione di fondo. Sì, questa rassegnazione è qualcosa che va combattuta e che i giovani ci devono insegnare a combattere, perché i giovani hanno appunto in sé, se trovano un ambiente minimamente accogliente, minimamente saldo a cui potersi appoggiare, esprimono invece normalmente, no? In modo anche più forte di quello che riusciamo a fare noi, che abbiamo già elaborato e capito tutto, no? Il desiderio di andare oltre le colonne d'Ercole. Quindi questo è l'aspetto, secondo me, su cui da valorizzare e su cui anche lavorare in termini educativi. Poi sul fronte del lavoro serve tantissimo orientamento, cioè aiuto, supporto, già nella scelta dell'università. C'è da un lato a livello sistemico una certa incompatibilità tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, ma soprattutto c'è un certo disorientamento da parte dei giovani nelle scelte. Sono poco chiari i criteri da utilizzare nelle scelte, per cui poi si trova tantissima gente che ha fatto delle scelte sbagliate, che si trova a dover recuperare e a trovarsi in ulteriore difficoltà rispetto a quelle che già normalmente ci sono per queste scelte sbagliate. Ecco, infatti, peraltro, proprio nei giorni scorsi l'OCSE ha sottolineato come l'università italiana si distingua dalle altre università per il numero di persone che perde per strada, di persone che entrano all'università e che non riescono poi a laurearsi, non riescono, non vogliono, oppure perdono appunto di entusiasmo durante il percorso universitario. Questo è certamente uno dei problemi che aiuta appunto a essere demoralizzati. Un giovane che non riesce a completare gli studi si trova anche a mal partito di fronte al mercato del lavoro. Appunto, per questo che dico che trovo fondamentale che ci siano possibilità di orientamento già dalla scelta della facoltà. Poi ovviamente abbiamo un sistema universitario che è molto più centrato sulla possibilità di tenere aperte sedi universitarie per dare posto ai docenti che non per effettivamente rispondere a una domanda di professionalità che poi coincide con le richieste del mercato. E questo è un problema del nostro sistema che se non si da una regolata finirà per dover cambiare per necessità invece che per virtù. Ecco, le imprese in questa fase, una fase difficile anche dal punto di vista congiunturale, veniamo da una crisi pesante, il 2009 è stato un anno di recessione, il 2010 è un anno di piccola, lieve, molto lenta ripresa. Sul mercato del lavoro quali sono i segnali che vengono dalle imprese? Ma le imprese cercano sempre di più persone con caratteristiche opposte a quelle che, cioè persone che abbiano voglia invece di investire, di costruire, di imparare, che abbiano voglia di andare oltre le colonne d'Ercole, che abbiano voglia di essere eccellenti e di costruire un pezzo di realtà eccellente. Da questo punto di vista, secondo me, le imprese stanno anche scoprendo, forse in ritardo, quanto sia importante la formazione professionale al loro interno. Vi devo dire per esperienza nostra, parlo del rapporto con i nostri dipendenti interni, tutto sommato abbiamo concepito per anni la formazione un po' come un di più, come quasi un servizio esoterico per aumentare la motivazione delle persone al legame con la nostra azienda. Nel 2009, l'anno della crisi, abbiamo riscoperto quanto fosse strategica la leva della formazione per orientare comportamenti, atteggiamenti, competenze verso ciò che è realmente necessario. Non c'è più spazio, c'è sempre meno spazio per attività, situazioni improduttive. Ecco, poi offrite soprattutto, intermediate soprattutto, lavoro a tempo determinato, lavoro... Sì, questo adesso parlavo dei nostri dipendenti, certo. Poi noi ovviamente come nostra vocazione abbiamo poi queste nostre 1000 persone operano per collocare a tempo soprattutto determinato col sistema del lavoro temporaneo mediamente 20.000 persone ogni mese, insomma. Ecco, il lavoro a tempo determinato soprattutto per i giovani viene visto come un lavoro precario, un lavoro che è quasi un modo di sfruttamento da parte dell'impresa, si spreme il limone e poi si abbandona. Ecco, questa è la visione un po' corrente. Cosa può dire sul fronte dell'esperienza concreta? No, allora, io dico che per me la precarietà innanzitutto sta nella assenza di trasparenza, nell'assenza di legalità, nell'assenza di tutele. Noi oggi in Italia abbiamo ancora una quota altissima di lavoro nero, di lavoro non trasparente. Questo è il vero lavoro precario ed è il lavoro che permette forse effettivamente a certi datori di lavoro di sfruttare il lavoro in modo improprio. Il lavoro temporaneo, vissuto in modo fisiologico, è tutt'altro che precario, è una fase di anticamera, di flessibilità, utile alla persona per anche orientarsi nell'ambito del lavoro, perché la persona, quando, per esempio, persone che iniziano a lavorare hanno bisogno di capire con chi lavorare proprio attraverso delle esperienze di lavoro magari a tempo determinato, così come le imprese hanno bisogno di capire con chi si trovano a che fare, ad avere a che fare, con che tipo di persona, con che tipo di potenzialità, con che tipo di atteggiamento, con che tipo, cosa che difficilmente si riesce a testare in brevissimi colloqui di selezione. Certamente la reiterazione all'infinito di rapporti a tempo determinato rischia di sconfinare poi nella precarietà, quindi è l'utilizzo patologico dello strumento. Ecco, ma questo non avviene da parte delle imprese. Normalmente, dopo, se il lavoratore, se il giovane si dimostra bravo, capace, entusiasta, riesce ad avere un posto. Normalmente no, ci sono appunto alcune situazioni appunto patologiche che vanno corrette. La cosa importante da notare è quanto sia importante nel mezzo tra il lavoratore e l'impresa il ruolo dell'intermediario, sia nel facilitare l'incontro tra domande e offerte di lavoro, sia nell'ottimizzare da una parte la possibilità da parte della persona di arrivare quanto prima ad avere un percorso professionale, pur magari fatto all'inizio di diverse missioni anche a breve, ma dentro una logica di medio-lungo termine, e dall'altra parte nell'educare in qualche modo, contribuire all'educare l'azienda a considerare la persona come un fattore competitivo a medio-lungo termine e non semplicemente come un limone da spremere, come lei diceva. Ecco, in questo autunno del 2010, quali segnali arrivano dal mondo produttivo, dalle imprese? C'è un po' di risveglio? Ma la congiuntura in questo momento non è negativa, no? È relativamente positiva rispetto al recentissimo passato, non è ancora al livello generale del 2008, però dobbiamo dire che già nei mesi di giugno e luglio, cioè, forse per la prima volta abbiamo avuto il senso di una ripresa un po' generalizzata, non solo a macchia di leopardo come era stata nei mesi precedenti. Permangono, a mio parere, all'interno del sistema Italia delle grandissime opportunità e delle grandissime potenzialità, ma anche delle grandissime criticità, e la vera difficoltà che io avverto è l'incapacità in questo momento a determinarsi ad un cambiamento radicale. Facciamo molta fatica a cambiare, siamo talmente abbarbicati ad un sistema, ad una logica tradizionale, che corriamo il rischio di dover cambiare per trauma invece che per decisione nostra. Ecco, di fronte all'emergenza di solito gli italiani sanno reagire meglio, però appunto anche capire in tempo i problemi, prevenirli, cercare di risolverli anche sul fronte appunto del mercato del lavoro, della logica delle imprese, dell'economia, potrebbe essere utile. Ma, appunto, io spero che non dobbiamo andare oltre il livello di crisi cui siamo già andati incontro per esprimere questa necessità al cambiamento. Devo dire che ci sono alcuni segnali molto anche incoraggianti. Tutta questa dinamica di Fiat, di Marchionne, della disponibilità anche di buonissima parte del sindacato a pensare dei modelli nuovi, e a non rimanere abbarbicati ai modelli ideologici tradizionali, rappresenta secondo me un primo barlume di speranza. Anche una maggiore partecipazione dei lavoratori. Lei all'inizio parlava di una realtà più di intesa, più di concordia all'interno delle imprese che non di conflitto. L'era del conflitto si può superare? Ma io trovo assolutamente di sì, cioè almeno io ho in mente una concezione di impresa che nasce come soggetto che ha una responsabilità pubblica, che non vuol dire statale, ma che deve mette insieme la necessità di rispondere a più interessi diversi. Se non c'è questo tipo di consapevolezza, la logica conflittuale è quasi una necessità. La nostra esperienza di 12 anni non è un'esperienza che non ha mai conosciuto nessun tipo di conflitto, ovviamente, ma è un'esperienza che ci sta confortando moltissimo sulla possibilità di mettere insieme esigenze di chi e bisogno di chi investe soldi o tempo, energie, lavoro, eccetera, all'interno di un progetto comune. Quindi ci può essere anche un ottimismo della ragione di fronte al futuro del nostro paese? Sì, un ottimismo non della ragione, della realtà. Grazie mille, io ringrazio Stefano Collilanzi, amministratore delegato di G-Group, con cui abbiamo passato questa prima parte della mattinata di Radio 24. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza in redazione. L'appuntamento è per domenica prossima. Grazie e buona domenica.